Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Lo scorso 25 settembre l'Associazione Nazionale degli Amministratori di Condominio ha presentato un progetto per un'iniziativa di check-up sui condomini italiani, una metodologia grazie alla quale sarà possibile stilare una sorta di pagella del condominio. Si tratta di un'iniziativa importante perché questo è uno strumento utile a fare cultura dell'edilizia. Ecco, io ricordo che nessuno di noi comprerebbe mai un cellulare da 50 euro senza una garanzia, un libretto degli istruttori, mentre compriamo immobili da centinaia di migliaia di euro senza sapere cosa passa attraverso i muri, dove passa e quant'altro. E quindi questo è un tema di cultura sul quale bisogna molto lavorare per migliorare la qualità dell'edilizia. Ma vediamo in cosa consiste questo sistema di valutazione con Francesco Burrelli, presidente nazionale di ANACI. Buonasera Burrelli. Buonasera a lei, dottor Melis. Allora, voi avete scelto il simbolo del girasole per classificare i condomini e si va da 1 a 6 girasoli, che è il top, diciamo così. Allora, quali sono i parametri che avete preso in considerazione? Buonasera, i parametri che abbiamo preso in considerazione sono 89 e riguardano tre aspetti fondamentali. Un aspetto è quello della sicurezza, un aspetto è quello dell'energia e l'altro aspetto è quello della sostenibilità di quella casa, quindi l'indice di convenienza di quella casa rispetto agli interventi. E quindi noi siamo andati a verificare all'interno della casa facendo un check-up molto semplice, dicendo quanto quel condominio è gestibile, quanto è comprabile e soprattutto quanto è abitabile. Ecco. Facciamo un esempio. Sì, ecco, infatti facciamo qualche esempio. Per esempio sulla sicurezza, 89 parametri abbiamo detto complessivamente, 31, per esempio sulla sicurezza 31 sulla sicurezza. Tipo, per esempio? 31 sulla sicurezza, per esempio, quali sono gli impianti? Allora, quella casa è sicura da un punto di vista l'impianto elettrico, l'impianto idraulico, l'impianto di riscaldamento, l'impianto del citofono, la domotica che c'è all'interno delle case che è sempre maggiore. Quindi andiamo a verificare che quel condominio è sicuro, quindi lei quando entra all'interno sa che è adeguato rispetto alle normative vigenti per quanto riguarda il certificato di prevenzione incendi, è adeguato per quanto riguarda la sicurezza elettrica, okay, per quanto riguarda l'ascensore. C'è un'app, quindi c'è una specie di Excel dove lei dice c'è l'impianto elettrico è conforme sì, gli manca qualcosa no, ognuno di loro può indicare i vari argomenti che ci sono chiedendoli all'amministratore, li mette in quest'app e gli dà l'indicazione dicendogli tu di quei 32 parametri ne hai solo 14, ne hai 15, allora vai in assemblea e gli dici perché non abbiamo gli altri 15 parametri, perfetto, che sono, perfetto, eccetera. Ecco, abbiamo la sicurezza, poi ci sono gli altri due settori, anche qui forse ci può fare qualche esempio per capirli. Sì. Prendiamo l'energia, l'energia è importantissima perché io voglio sapere se il mio condominio è energivoro oppure no. Quindi, quali sono, ecco, i parametri che io posso toccare affinché posso migliorare dalla classe G alla classe D e quindi diamo delle indicazioni. Per esempio, prendiamo solo l'involucro. Questo involucro ha una trasmittanza che vuol dire la quantità di calore che passa per metro quadrato. Questa qua si può migliorare col capotto, senza capotto, con l'isolamento interno ed esterno. A seconda di questo abbiamo messo dei parametri, su questi parametri sempre con un programma in Excel noi possiamo, okay, avere un parametrino che ci consente di andare a migliorare, quindi io mi posso gestire all'interno di casa mia come posso gestire solo la mia unità immobiliare. Il condominio non vuole fare niente, ma io mi isolo le pareti all'interno magari. Perfetto. O con la lana di vetro o con il sughero o con altri parametri e io posso migliorare, oppure con i vetri in camera, oppure, certo, con altre cose, e quindi posso migliorare questi coefficienti. Questo vado ad incidere sempre su quell'app e quindi mi do una regolata su quelli che sono effettivamente i parametri, quindi io so regolarmi e mi so soprattutto orientare su quelli che sono i parametri dell'energia. Altra cosa, vado a chiedere all'amministratore che tipo di centrale termica abbiamo, certo, che tipo di rendimento ha, a seconda del rendimento avrò un certo punteggio. Ecco, e poi c'è questo terzo. Questo è più importante. Terzo insieme me di parametri cosiddetti ambientali, no? Che riguardano un po' anche la qualità della vita, mi sembra di capire. Il terzo è più importante perché c'è anche l'indice di qualità, quindi l'indice di convenienza dell'appartamento. Adesso facciamo un esempio. Oltre che l'indice di convenienza c'è anche l'indice di sostenibilità e più c'è il rating immobiliare. Primo concetto, indice di convenienza. Io prendo una casa che vale 100, ci metto dentro una ristrutturazione che vale 50 e la mia casa vale 150, ma magari a metro quadrato in quella zona la mia casa vale 120. Allora ha senso che io investo, certo, 150 per vendere 120? L'indice di convenienza non c'è. Quindi rispetto a quell'indice di convenienza io vado a fare delle valutazioni prima su quel check-up e mi metto d'accordo se investire o non investire o se devo fare un altro. Perfetto, quindi questo è un aspetto, ma poi per esempio, se ricordo bene, tra i vari parametri, cioè non so, può esserci la presenza di una colonnina di ricarica delle auto elettriche, la presenza di un car sharing, cioè tutti i servizi che possono essere legati al condominio e che evidentemente hanno un impatto sulla qualità della vita di chi vive dentro a quella struttura. Ma non solo quello, c'è anche il discorso del co-housing, c'è anche il discorso di un defibrillatore all'interno del condominio, c'è anche la badante condominiale. Un defibrillatore in un condominio dove ci sono 60 persone costerebbe 15 euro a testa, ma se noi serviamo solo una vita, certo, vale molto di più. Va bene, grazie. Allora, grazie a Francesco Burrelli, avete parecchio da fare, quindi buon lavoro. Grazie, ci sentiamo presto. Grazie. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.